radio. Dai colore alle tue frequenze. Sono le 22 e 18 minuti. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, ci siamo, dopo abbiamo fatto la nostra questa oretta dedicata ai Summer Time. Luca Francioso Trio, buonasera Luca. Eccoci. Francioso, buonasera ai suoi compagni d'avventura. Ciao, ciao a tutti. È la prima volta che ospitiamo i Sei Mari, un nuovo progetto praticamente. Sì, un progetto sì. Nuovo per Rock Wave, chiaramente. Sì, sono ormai un anno e mezzo che tentiamo di colorare la mia musica attraverso Sei Mani. Esattamente. Ma in realtà stasera siamo in otto. In otto. Otto mani. Perché c'è anche Paolo Vidaic che ci dà un supporto percussivo. Beh, fammi vedere così. Ecco, stanno vedendo tutti i nostri ascoltatori. Che, ecco, questo è il supporto percussivo. Ok. Comunque insieme a me ci sono Francesco e Alessandro Piovan, che come Walter ha ricordato prima. Sono componenti ormai storici dei Summertime, e io sono andato un po' a rubacchiare la parte percussiva proprio dei Summertime con i fratelli Piovani. Ok, una cosa che volevo chiederti è questa: l'idea che è nata per sviluppare il progetto Sei Mani è nata da te e dai due fratelli Piovani? Allora, nasce da due eventi. Il primo è un evento emotivo che mi riguarda, cioè io sono un solista, per cui a volte l'ensemble, insomma la dimensione dell'ensemble manca, mi manca un po' lo sguardo complice con l'altro musicista sul palco. E poi la continua insistenza dei fratelli Piovan. La continua insistenza. Assolutamente. Continua insistenza. Non solo, in realtà. La chiave della svolta è stata la moglie di Luca Francioso. Che ha insistito tantissimo per questo progetto. Dietro le quinte lavorava anche lei. Però devo dire che sia Francesco che Alessandro hanno, come dire, voluto questo progetto. E io... Perché ricordiamo che Luca Francioso non è soltanto un musicista, un esperto di Ficky Picking, si può dire così, ma sei uno scrittore, fai un po' di tutto a 360 gradi. Provo a esprimermi con più linguaggi. Bisogna provare, a tentare, tu tenti giustamente per tante strade, per tante vie, e Sei Mani è una delle tante vie. Sì, è un modo, come dicevo all'inizio, per colorare la mia musica e per darle una connotazione diversa. Difatti, molto spesso con i ragazzi stravolgiamo proprio i pezzi che comunque hanno una vita propria, vivono già da soli, poi invece con la pelle dei Sei Mani cambia completamente. Quindi con la pelle dei Sei Mani cambia completamente, con una mano in più cambia ancora. Esatto. Me. Beh, in realtà nel disco che abbiamo, il primo nostro primo disco, sono tante mani in più. Ci piace aprire il nostro progetto un po' a quelli che sono i nostri amici, i nostri compagni di viaggio storici, magari trovati in altri progetti che abbiamo portato all'interno di questo, cioè è la cosa che ci piace più fare. Infatti è rarissimo che ci esibiamo in tre. Il trio si è esibito una volta sola. Quindi sei Summertime è un gruppo aperto, i Sei Mani sono un gruppo aperto lo stesso. Sono un porto emotivo, così. Facciamo una cosa, la scaletta l'avete già predisposta? Apriamo la solita nostra finestra, un primo pezzo. Che pezzo avete scelto? Abbiamo scelto un pezzo che si chiama Cova Vermeia, che è un brano che nel disco è suonato anche con Jacopo Jacopetti, il sassofonista, con cui collaboro spesso e con cui anche i Summertime ovviamente stanno collaborando. È un brano dedicato a un paesaggio di un'isola che si chiama Corvo nelle Azzorre, e con Sei Mani ha veramente assunto un'altra dimensione rispetto alla... Perché questo disco che vi presentiamo questa sera, insieme poi al singolo, il disco in realtà sono brani, come dire, scritti e composti da me in altre situazioni, in altri contesti, e ripresi coi Sei Mani e rivisti proprio con un'altra pelle, che poi è il titolo. Se Jimi Hendrix ha rifatto Bob Dylan con On the Watchtower, voi avete rifatto i pezzi di Luca Francioso in un'altra dimensione. Sì, con i giusti, come dire, paragoni. Sì, io parlo di rifacimenti, il pezzo di Dylan non è un pezzo di Dylan, è un pezzo di Jimi Hendrix, suonato da Jimi Hendrix. Tutti i critici hanno detto così, io non sono un critico, però sono perfettamente d'accordo. Sentiamo il pezzo vostro. Ok, allora. Cova Vermeia. Rock Wave, l'onda del rock. Radio. Blu Radio. SMS 346 23 20 033. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Sì, mi avete preso alla sprovvista, giustamente avete suonato, avete suonato in modo, cioè, avete preso alla sprovvista nel senso positivo del termine. Io non avevo mai sentito i Sei Mani, avevo sentito solo dal disco chiaramente, quindi è tutta un'altra cosa, un'altra dimensione. Questo suono un po' particolare che hai fatto. Sulla cassa? Sulla cassa, esatto. E siccome, come ti dicevo prima, sono un solista, sul palco cerco di non farmi mancare le parti ritmiche, e quindi esatto, sfruttando le tecniche del fingerstyle, del finger percussion. Ecco, ripeti quello che hai detto, perché io lo so, però mica tutti gli ascoltatori lo sanno. Beh, il fingerstyle è una tecnica chitarristica per cui una chitarra diventa solista in, certo, in tutti i sensi, quindi diventa una piccola orchestra le cui corde vanno a suonare le varie voci di questa orchestra, e a volte manca una parte ritmica, per cui la cassa della chitarra diventa una percussione vera e propria. Ecco, esattamente. Me la rifai un secondo? Certo. E questa è molto semplice, in realtà si possono fare pattern anche molto più complicati. Benissimo, mi interessava molto questo. L'idea, loro come ti hanno seguito? Come hai provato un discorso simile? Ma per questo disco è successo che i ragazzi, ascoltando i pezzi già incisi, hanno contribuito con la loro sensibilità e fantasia, e poi insieme abbiamo confezionato la pelle nuova del brano. Per i brani, per il nuovo brano che poi presentiamo, sì, presenteremo questa sera, è stato diverso. L'arrangiamento è nato proprio in studio mentre ci approcciavamo alla registrazione, e cosa che penso accadrà anche per i pezzi nuovi, insomma. Ripeto, l'improvvisazione, cioè il mio sono un po' stato, in senso positivo, scosso, perché dal disco è tutta un'altra dimensione, anche il suono secondo me è diverso, per quello sono rimasto un po' così. Beh, insomma, in questa stanza sarebbe molto difficile riproporre le sonorità anche molto molto aggressive, pure acustiche del disco. Quindi abbiamo... Dimmi. Nei dischi precedenti di Luca, dove noi abbiamo partecipato... Che abbiamo presentato, Luca è venuto a trovarsi più di certo, una volta. Dove noi abbiamo partecipato come turnisti. Certo, anche certo. Se poi in realtà non è stato... Session Man, perché chiamiamolo Session Man? Session Man, perché turnista benissimo. Un po' brutto, Session Appunto, Man. Anche Session Man è un po' brutto, nel senso che comunque, lavorando per conto terzi, ti presenti in studio, fai perfetto. Il tuo lavoro, logicamente, sempre perfetto. Benissimo. Nel caso di Luca è stato diverso, ci siamo presentati in studio e abbiamo preso proprio parte al progetto, parte integrante, quindi col cuore. Stiamo giocando qua sui termini. Come direbbe il direttore di San Martin, che abbiamo sentito prima, Walter Ferrulli. Che qua, si qua parla, di fianco. Qua di fianco a noi, proprio attaccamento alla maglia. Ecco. Ci abbiamo proprio partecipato col cuore. Okay. E quindi nei primi dischi abbiamo partecipato acusticamente, quindi anche la scelta degli strumenti è molto importante. Questa sera, essendo piccolini, in uno spazio abbastanza ristretto, abbiamo optato per strumentazione molto piccole, quindi strumenti posso dire acustici, una cosa? Sì. Non in senso negativo, fate rumore lo stesso. Certo. È quello il bello assolutamente. Adesso veramente facciamo un pezzo dal disco? Un altro pezzo live. Benissimo. Siamo tutti improvvisati. Abbiamo rovesciato la scaletta. Di solito la rovescio io, invece avete rovesciata voi la scaletta. Benissimo, un altro pezzo live. Il brano probabilmente che ha dato... diciamo che dà il titolo al lavoro, che è stato il germoglio dei Sei Mani, perché è la tutt'altra lontananza che il brano che suoniamo adesso. È stato presentato live a Limen, al Teatro Falcone Borsellino. Benissimo. Di quella serata è stato fatto un DVD, e per quel DVD ho inserito un contenuto extra che era un pezzo inedito, e ho chiesto ai ragazzi, proprio Francesco e Alessandro, e poi a Paolo e Jacopo, Jacopetti al sassofono, di accompagnarmi in questa idea, questo progetto. E lì ci siamo guardati, alla fine della registrazione, ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto, forse è il caso che continuiamo a fare musica insieme, e da qui sono nati Sei Mani. Prima che fra qualche secondo adesso parti, ma ti sei detto, ma è ancora il mio pezzo oppure no? Sempre, ogni volta che finisce l'esecuzione di un live o delle prove, mi chiedo, ma... Esattamente. Assolutamente sì. Ok, perfetto. Rock Wave, l'onda del rock. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, ci siamo. Ho notato una cosa, i nostri produttori avranno notato anche loro con le telecamere accese. Luca si è girato, ha guardato il tuo nome? Alessandro. Ok, poi ha guardato Francesco. Francesco e poi ha guardato il nostro percussionista. Tutto ok. Tutto a posto. E quello è importante, l'accordo è caduto immediatamente, c'era immediatamente, senza problemi, uno sguardo e via. Questo tipo di interplay io credo che possa avvenire, accadere solo se tra i musicisti, come nel caso come di Slimani, prima di tutto c'è una amicizia profonda, una stima reciproca, il gusto di suonare insieme, e quindi poi è come stare in piacevole compagnia in una serata, viene tutto naturale. Ecco, hai detto una cosa giusta, il gusto di suonare insieme, questo è l'importante, il feeling, chiamiamolo feeling, sì. Posso dire questo? Assolutamente sì, anche perché per il lavoro che facciamo almeno noi, come dicevo prima, siamo abituati a lavorare per conto terzi. Noi siamo di una stessa idea che la musica vera, quella vera, dove ci si diverte, la si fa con gli amici. E quindi questo è proprio il caso di profonda amicizia. Parlavamo prima, un attimo fa, di interplay, quindi di profonda conoscenza. Per quanto riguarda questa parte ritmica, quindi io, Alessandro e Paolo, ci con l'aggiunta di... Paolo. Io, Alessandro, che appunto siamo fratelli, sì. E Paolo, credo sia il decimo disco insieme, quindi... ci conosciamo a memoria. E suonare con Luca è semplicissimo, è un artista fantastico, e quindi è venuto naturale questo interplay e questo modo di suonare. Ritornando a Bob Dylan, voi lo sapete, forse se lo sapete non lo sapete, se non lo sapete ve lo dico adesso. Quando Bob Dylan sale sul palco, che ha i suoi musicisti, lui non dice assolutamente nulla. Sale sul palco e canta, i musicisti non sanno che scaletta ha, e così è Bob Dylan. E Luca, voi sapete che scaletta aveva Luca? Fino a questo punto no, però se lo sapete. Però okay. Guarda, ti posso dire che delle cose che abbiamo provato oggi pomeriggio, ne stiamo facendo un terzo. Poi è tutto a braccio, quindi tutto abbraccio. Improvvisato. Ma Rocco Way è questo? Assolutamente. È assolutamente improvvisazione. Fammi sentire mi ricorda molto il Salento quella cosa. Quindi noi negro amaro, ma insomma. Questo è più sul fronte a... Questo è... Tamburo più sul fronte arabo. Ah, più sul fronte arabo. Però la struttura è sempre la stessa, ma la tecnica con cui si suona nel Salento è completamente diversa. Molto diversa, perché è tutta una roba. È vero, perfettamente. Invece la parte araba è più suonata. E quindi, comunque, bene o male, ogni posto del mondo ha un tamburo così e viene suonato con tecniche diverse. Con tecniche diverse. Lui è un mostro comunque a suonare. Ciao ragazzi. Ciao Agostino. Abbiamo tempo per far sentire tutto, sì. Fino a mezzanotte. Sai che belle suonate facciamo. 22:30. Posso interromperti un attimo? Volevo fare una domanda a Francesco vai. E anche ad Alessandro. Che emozione è stata suonare con Lucio Dalla o con Grignani? Ma... Perché chi non lo sapesse, loro hanno suonato anche con questa gente qua, tanto per intendersi chi abbiamo a che fare. Ma in realtà, come parlavo prima, è lavoro. È lavoro. Ho letto una tua intervista che dichiari queste cose, insomma. Sì, è lavoro, assolutamente, sempre fatto bene, col massimo della serietà e della professionalità. Certo. Questo prima di tutto, sempre rispetto per quello che facciamo. Certo. Anche perché la musica, che per noi è nata come una passione, è diventata poi un lavoro, gode da parte nostra sempre di un profondissimo rispetto. Ma diciamo che l'adrenalina è sempre la stessa, ti posso dire la verità, sì. Anzi dico sinceramente quello che penso, salire sul palco con Lucio Dalla o con un Grignani, sì, è importante, ma ti dico... È molto più emozionante, almeno per me, salire sul palco con Luca Francioso, sì, o con i Summertime, sì, stessi, che sono un po' l'anima, la famiglia, e come diceva prima sempre il buon Walter, l'attaccamento alla maglia, quindi è sempre quello, cioè non si sbaglia con i grandi, ma non si sbaglia neanche in questi casi, sì, qua, quindi sempre il massimo della professionalità, della precisione per la riuscita dello spettacolo, assolutamente. C'è più divertimento però con i Summertime o con Luca Summertime Francioso? È un'emozione continua. I Summertime, sì, da 10 anni a questa parte, almeno per me, hanno cambiato la mia vita, diciamo, anche per chi vi ascolta. E quindi grazie Ago, e ti dico, è sempre un'emozione salire sul palco con loro. Tu hai parlato di turnisti, mi ricordo di un nome, i Fratelli Porcaro. Erano turisti eccezionali, quindi suonavano dappertutto. I Fratelli Porcaro, tra l'altro, una volta uno purtroppo ci ha lasciato, certo, qualche anno fa, e uno purtroppo adesso ha una bruttissima malattia, perché è colto da sclerosi laterale o sclerosi multipla. Sì, però erano dei musicisti. Tanto che al posto suo con i Toto c'era il grande Nathaniste, e lo ricordava in un'inserzione sul suo Facebook con una fotografia, dice, dedicato con affetto a Mike, che in questo momento sta male. E parli di storia della musica, sì, cioè una sezione ritmica che ha insegnato a tutti, sulle quali noi stessi abbiamo studiato e studiamo tuttora, e cerchiamo di tramandare i nostri allievi. Sono dei punti fermi, dei passi che bisogna fare assolutamente. Esattamente, c'è stato un periodo in cui tutti i dischi, o tanti dischi di una certa epoca, special guest c'erano sempre, ma assolutamente dappertutto, cioè, dappertutto. Hanno inventato un modo di suonare, cioè, ma non un modo di portare il tempo. Fra un po' in tutti i dischi saranno i Fratelli Piovani. Sì, perché no? Perché no? Perché no? Ragazzi, io ne approfitto per portarvi i saluti di Jacopo Jacopetti. Grandioso. Non c'è questa sera, mi ha detto salutameli tanto, anche te Walter. Grande Jacopo. Perché è in vacanza lui, voleva essere qui questa sera, volevo chiamarlo telefonicamente, ma non mi è assolutamente, è un amico grandioso, oltre che... Io devo dire una cosa, svelando anche il mio passato musicale, che io sono cresciuto ascoltando il sassofono di Jacopo Jacopetti nella canzone di Eros Ramazzotti, Musica. Lo vogliamo ricordare, perché veramente... E quando io ho suonato con Jacopo in un disco, nel disco Luoghi, nel 2004, dopo ho scoperto che lui era quel sassofonista, e per me è stata una cosa... Perché io ho sognato su quel sassofono per tantissimi anni. Insomma, dopo suonarci insieme. Comunque, è stato... io che lo vedo tutti i giorni, parla bene di voi. Grazie. Quindi non vi preoccupate, è reciproca la stima, insomma. E poi comunque Luca sta crescendo, un altro sassofonista in famiglia, vero? Sì, sì, mio figlio Simone, che da quando ha scoperto i sei mani non parla di altro. Sono Alessandro, Jacopo, detto Iapo. Checco e Palolo, sono i nomi più citati, più di mamma e papà in casa. Ok, 22:43, stavolta sentiamo un pezzo dal disco, sì, dal CD. Visto che si parlava prima della diversità di timbriche, di sonorità, facciamo ascoltare un brano che probabilmente è il brano che mi accompagna tuttora nei concerti, è un brano che ho scritto 12 anni fa, ma tuttora continuo a divertirmi nel suonare, e che con i sei mani ha veramente acquistato un'altra dimensione, che è In Viaggio. Ok. Rock Wave, l'onda del rock. Thank you. Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Eccoci qua, 22:49, 19 secondi, quasi 22:50. Fino a mezzanotte abbiamo tempo, Luca ed Friends, esatto. Possiamo dire questo. Sì, mentre il microfono, cioè mentre il pezzo andava, il microfono era spento, ho fatto questa domanda, adesso la facciamo anche così gli ascoltatori la recepiscono. Cioè, ci sono state delle difficoltà, c'è delle difficoltà a portare avanti un progetto di questo genere, soprattutto nei live? C'è qualche tensione, soprattutto musicale, no? di amicizia, questa non esiste, ma per innestare, dare corpo a un progetto sì. Ma le difficoltà, quando si lavora con più teste, ce ne sono sempre. L'importante è come affronti le difficoltà. Per quanto riguarda i sei mani, le difficoltà sono, cioè, prima di tutto una difficoltà pratica di tempi, essendo Ale e Checco molto molto impegnati in vari turni e in tanti progetti, c'è una difficoltà prima di tutto di trovarsi, no? di stare un po' insieme e di far crescere questa cosa, ma questa è facilmente superabile. Le difficoltà per quanto riguarda invece la musica si superano facilmente, perché ci si fida a vicenda, ci fidiamo di tutti, e quindi quando qualcuno, mi viene l'esempio della Casa di Zoche, che è poi il brano, che il nuovo singolo che è uscito, quando ho fatto sentire ai ragazzi il pezzo hanno avuto dei dubbi se era il caso di fare questo pezzo piuttosto che no. Si sono fidati, come in altri casi io mi sono fidato di loro, e poi il pezzo ha funzionato, gira. Avete registrato tutti assieme o a settori? No, tutti assieme il trio. E poi Paolo era fuori. Veramente impossibile che registrasse 7-8 percussioni contemporaneamente, e poi Jacopo ha sovrainciso, sì. Però diciamo che il trio ha registrato live. Sì, così come nascono tutti i pezzi, per esempio il nostro primo disco, che è L'altra pelle, che è quello qua davanti, vediamo con la telecamera. Agostino, lo vedi adesso? Forse ti do una mano. Ecco, meglio. Ecco. Ce la faremo. Ok, perfetto. Questa è la copertina dell'Altra pelle. Poi adesso è uscito il singolo, che sarà la apripista di un album intero, il singolo, oppure l'idea era quella. L'idea è quella. Adesso dobbiamo lavorare. Ci stiamo lavorando. Sì. Comunque, dimmi. Che tutto questo disco è stato arrangiato e suonato nel salotto di casa mia. Ah, quindi è un studio di registrazione. No, assolutamente no, era una casa modestissima, però ci siamo trovato lì con proprio gli strumenti. Con gli strumenti che abbiamo che vedi adesso, nudi e crudi, proprio per vedere se l'idea funzionava. E dopo, quando siamo andati in studio, abbiamo tirato fuori tutti i nostri bei bassi, chitarre, l'arsenale che teniamo a casa. Però il progetto nasce proprio nel canovaccio nella semplicità, per vedere. Poi logicamente con un piccolo registratore o col computer registriamo oggi, ma sì, può funzionare, no, non può funzionare, proviamo questa ritmica, proviamo quest'altra cosa. E ti faccio una domanda, tu insieme a tuo fratello fai quel lavoro di turnista nel senso positivo, cioè suoni per parecchi, e il computer ha rovinato, secondo allora, te? Assolutamente, non mi sento di dire né sì né, no, sì, né nel no. Senso che, perché col computer si può fare tutto, però c'è anima col computer. Allora, dipende. Allora, se io vado in studio cerco di fare una parte dritta dall'inizio alla fine. Sì. Se cominciano a dirmi ma forse correggiamo un attimo qua, dico piuttosto no, guarda, te la risuono. Okay. Di solito chiaro. Già alla seconda, terza ripresa è già troppo. Il correggere è un po' al di là della registrazione in sé, ma diciamo che comunque è una cosa, è un oggetto fondamentale, nel senso certo. Adesso come adesso ti permette di lavorare a casa, non devi più andare in studio, che è un dispendio di soldi enorme. Quindi poi fra l'altro noi ne abbiamo fatto un uso veramente importante perché ci scambiamo gli appunti, viaggia tutto, diceva prima, è difficile trovarci, però ogni tanto apriamo la mail, c'è un pezzo nuovo, cominciamo ad ascoltarlo, ognuno poi ci si lavora, poi noi spesso lavorando insieme dici ma hai sentito il pezzo, sì, così dici ma io ho provato a fare questa cosa qua, allora lui magari mi manda la sua batteria incisa, io gli mando il mio basso, cerchiamo di mettere insieme, sì funziona, no non funziona, bellissimo, assolutamente incastrare tutto. E beh, se vuoi lavorare con gli Piovan è così, perché non li trovi mai. Siamo, infatti, quello che stavo dicendo prima, è che volevo dire prima, in realtà poi ha detto lui, ad esempio nel singolo che è appena uscito, che poi ascolteremo, abbiamo fatto proprio questo tipo di lavoro, e il computer in questo caso è stato fondamentale. Ognuno ha registrato le parti, sentivamo se giravamo. In realtà siamo andati anche in studio questa volta molto impreparati, diciamo. Ecco, Luca usa questa termine, impreparati, però in realtà poi io all'inizio sono stato io, devo dire la verità, a avere i maggiori dubbi sul pezzo. Ho chiamato Luca il giorno dopo, dico, ma secondo me facciamo non lo sentivi. Poi mi sono messo a lavorare giù a casa, ho registrato una parte, gliel'ho inviata, ma sì, bene, proviamo a far così. Poi in realtà, insomma, devo dire la verità, sono molto contento di quello che è venuto fuori, però abbiamo fatto, ecco, un grosso lavoro di computer. Okay. E l'ultimo tassello è il suo, praticamente. Nell'ultimo singolo no, è nato insieme. Ma tu arrivavi per ultimo in ogni caso. Sì, nel disco... No, ho capito il senso. Chiaramente, no? Il senso negativo, senso no. Assolutamente. Beh, un po'. Nel senso del... sai, i percussionisti sono abituati. Sono abituati. Però in realtà, se comprano noi come sezione ritmica, Paolo è già incluso nel premio. Ah, perfetto. C'è sempre da fare. Perfetto. Tipo l'inserto sportivo dei giornali. Ho capito. Comunque, pensavo al computer prima mi dicevi. Secondo me il computer è uno strumento fondamentale, però non ti aumenta la sensibilità e il gusto, cioè non ti migliora il gusto che uno ha già dentro, cioè quello che è, ti migliora l'efficienza del lavoro. Del lavoro, sì. Però in realtà se uno è bravo sia in live che al computer, forse è più bravo velocemente, cioè raggiunge il risultato più velocemente, ma se uno è un po', non è il fatica, massimo, insomma. È un po' così, non è che computer ti fa il miracolo. Però qualche volta il computer fa il miracolo per chi non è propriamente molto dotato. Si sente. Dal vivo si sente, non solo dal vivo. Dal vivo si sente, ma anche dopo il computer, per cui alla fine c'è quel gusto, quel colore che non lo raggiunge. Ho capito. Perché il computer usa i soliti algoritmi tecnici che ha tutto il mondo, per cui alla fine si arriva a un certo punto. Certo. Noi non abbiamo il computer, abbiamo gli strumenti veri. Certo. Adesso suoniamo. Che pezzo suoniamo? Allora, suoniamo un brano che si chiama Effimera e probabilmente di tutto il disco L'altra pelle è il pezzo che più abbiamo spinto verso un'aggressività che non mi è familiare nella mia dimensione acustica. Okay. Tant'è che ricordo così. Sì, è nato così. Tant'è che ricordo che Mauro Santinello, il tecnico fonico che ci segue, che mi segue e ci segue da anni, la prima volta che mi ha fatto ascoltare il primo mix mi ha detto apri la mente. A proposito di computer, mentre avevamo finito le parti della ritmica, io sono stato 2 ore a cercare di campionare un suono di zanzara, di quelle zanzare da stagno che si sentono, che si rincorrono. Come mai? Di quelle mosche. Perché ci stava bene, cercavamo qualcosa di noise. Effimera è un insetto. Effimera è un insetto, cercavamo qualcosa di noise così che disturbasse all'inizio, e quindi mi sono messo là a campionare questo suono, e questo grazie al computer. Perfetto. Blu Radio, dai colore alle tue frequenze. Thank you. Rockwave, l'onda del rock. Ok, aperto la mente, ma aperto anche i cuori, aperto anche le braccia, aperto un po' di tutto. È un pezzo veramente rock questo qua. Eh sì. Bisogna dirlo, proprio un pezzo forte, un grande pathos, molto molto potente, possiamo dirlo. Sì, credo che dal vivo con gli strumenti elettrici, anche qui raggiunge, no, sì, insomma, diciamo, qui siamo in un tono un po' più acustico, sì. Lì raggiunge insomma dei picchi molto, molto importanti, sì. Soprattutto per me e per il tipo di musica che propongo solitamente. Ma la grinta di Alessandro alla batteria me la rifai? Me la rifai quel pezzo, dai. Qual è il finale? Sì, esatto, il finale, sì. Ok, volevi dirmi una cosa? Devo dirvi una cosa. Dimmi. Questo pezzo sono riuscito a inserire anche quello che insomma è la doppia cassa nella batteria. È in un brano, in un disco di Luca Francione. Cioè, è una cosa tanto rarissima. È vocale. Tanto che devo raccontare questo. Dimmi. Allora, siamo in studio, io ovviamente sto facendo le parti di batteria, inizio, poi ci dovranno essere le parti di percussione i giorni seguenti, chiamo Paolo e gli dico: Paolo, preparati, perché, dico, cerca di venire con... E lui era abituato a fare i dischi di Luca, magari con lo shaker piccolo, la campanellina, il triangolino, sai, le cose molto leggere. Dico, guarda che qua non hai capito. Paolo è un ricamatore. Guarda che qua abbiamo cambiato Luca Francione, cioè esce con le borchie, col giubbetto di pelle, con gli orecchini, la moglie non lo riconosce più. Per cui ho detto, porta via, cioè robe pesanti. Perché pesante, qua... Io ho detto, guarda che ho messo la doppia cassa in un pezzo. Lui non ci credeva, poi in realtà... Insomma, in realtà sono cose un po' a noi strane, perché venendo dal pop siamo abituati sempre a fare le parti molto misurate. Quando sono arrivati in studio, ho sentito il primo mix del brano col basso distorto, appunto, tra l'altro, ho trovato questa sorpresa, basso distorto. Tra l'altro io suonavo proprio col plettro, perché questo pezzo io mi ricordo che l'ho registrato dopo aver mangiato tipo alle 9:30-10 della sera. Ma è digerito bene, però. Sì, digerito benissimo. Andammo a mangiare dopo una giornata di lavoro col nostro carissimo fonico, che è l'altro elemento fondamentale del gruppo, perché ci segue anche live, è veramente... E chi sarebbe il fonico? Mauro Santiniello. Il nostro fonico. Prova a chiamarlo. Anzi, facciamo così. Mauro? Così. Ragazzi, eccolo qua! Grande! Ciao Mauro! Grande! Allora, il nostro Santiniello non poteva mancare. Ciao. Se noi siamo le mani, lui è il cuore di questa band. Addirittura. Mi sento un po' lontani, cerco di capire anche dal labiale. Perché ci vedi? Ci vedi. Ciao Mauro, grandioso, Mauro. Ciao. Ma vi state divertendo, mi pare. Ci stiamo divertendo tantissimo. Ecco, poteva invitarmi, no, vero? Mai. Se no la telefonata chi la facevamo? Ok, vabbè, andavo fuori in un'altra stanza. Okay. Quindi l'importanza del fonico. Luca ci parlava. Chiamiamolo tecnico del suono. Esattamente. Molto più bello. Il fonico, praticamente, senza il fonico. Ma il fonico sono le orecchie. No? Cioè è il collo di imbuto dal quale la tua musica passa. Non mi avevano mai definito un collo. Hai visto, Mauro? Sei un collo di imbuto. e grazie a lui la gente ascolta, certo, quello che tu fai. Quindi è importantissimo. Ecco perché quando facciamo i live vogliamo sempre Mauro con noi, insomma. Anche perché ne parlavamo prima, anche con Mauro c'è una profonda amicizia da anni, e certo, devo dire una cosa, confermo. Noi ci fidiamo ciecamente del... Difatti stavo per dire, quando ho ascoltato questo pezzo dice: guarda, ho fatto il basso così, e io non ho detto niente, cioè meraviglioso, stava bene così. Lui ci conosce a memoria, quindi sì. Oltretutto devo dire le nostre orecchie. Oltretutto devo dire che posso dirlo qui in diretta, ho guadagnato i voti e i crediti, perché la saletta nel studio, una delle sale dello studio di Mauro, si chiama Luca Francioso. Esatto. Assolutamente, perché vivo là ormai, ci sono sei dischi. Quanti dischi abbiamo fatti? Diciamo che con quello che stiamo finendo è il quarto. Ecco, è il quarto disco. Ma c'è di più. Vogliamo parlare della tua foto in Facebook? Sì. Dentro il tuo bagno. E canto dentro il tuo bagno. È stata un'esperienza, esatto, magnifica. Beh, comunque, insomma, no, io vi vedevo e vi ascoltavo suonare, vi faccio sempre i complimenti, perché avete un gran tiro e una grande sensibilità, siete sempre molto bravi. Hai capito perché il nostro fonico? €100 Scherzi a parte, io volevo dire una cosa un po' in anteprima, ascolteremo poi il nostro ultimo singolo, Io appena l'ho sentito mi sono veramente sentito di fare una telefonata e di ringraziare di cuore Mauro per il lavoro certosino, preciso che ha fatto, e lo ringraziamo anche qua in diretta perché assolutamente, è stato veramente fondamentale come sempre. Mauro, in pochi secondi, che lavoro di Cesello fai dei suoni di Luca Trio? Dunque, Cesello, allora, il lavoro fondamentale secondo me per un gruppo di questo tipo, vabbè che è un po' sempre la mia filosofia, però in questo caso in particolare è quello di rendere i suoni il più naturali possibile, nel senso, ecco, che si parla comunque di batterie acustiche, di chitarre acustiche, di bassi, vabbè, elettrici o acustici, percussioni, sassofoni, violini, archi, eccetera, che sono fondamentalmente la mia passione, e quindi cerco di riproporli in modo più naturale possibile, cercando di incanalare al meglio, diciamo, le loro energie. Senti che frasi mi sono un poeta. E poi, vabbè, da parte mia c'è il tentativo, che per fortuna spesso viene apprezzato, di insomma, di dare il mio apporto anche artistico, di dire sempre la mia, eccetera. Infatti ho il grande onore di aver coprodotto il disco L'altra pelle artisticamente è stato il produttore artistico, e ha anche diciamo aggiunto con la sua sensibilità, e con grande sensibilità devo dire, nel disco delle percussioni digitali, degli strumenti digitali che andavano sempre ad arricchire, hanno colorato l'idea, assolutamente sì, con molta discrezione, certo, davvero, e con molta sensibilità, quindi un elemento fondamentale, assolutamente. Ti ringrazio. Benissimo. Poi devo dire che così introduciamo anche l'argomento per cui alla fine siamo venuti qui, che è questo nuovo singolo che si chiama La Casa di Zocche. Se non ci fosse stata la grande, secondo me, posso anche azzardare, geniale idea che ha avuto Mauro di questo evento che lui chiama A Day With, e che adesso magari, se vuole spiegarlo lui, che forse è meglio, non ci sarebbe stata La Casa di Zocche, il singolo, perché è proprio attraverso questa formula che lui ha creato, si è inventato, che alla fine abbiamo deciso di entrare in studio e registrare questo disco. Certo, sì, beh, ti ringrazio, insomma, anche secondo me è un'idea geniale fino a un certo punto, nel senso che concettualmente è molto semplice, infatti mi sembra strano che nessuno l'abbia mai fatto, oppure qualcuno l'aveva già fatto, io non lo sapevo. Fondamentalmente si tratta di invitare un gruppo in studio e invitarli quindi a registrare, a produrre un singolo, un live in studio, quello che è, aprendo le porte anche ad un ristretto pubblico che quindi vede, diciamo, il dietro le quinte della creazione di un singolo, di un disco. E questo è, secondo me, molto importante, perché appunto uno, la gente comune o comunque altri musicisti si rendono conto di quanta fatica si faccia in studio per appunto per produrre, e quindi nel momento in cui magari avranno la tentazione di scaricare il solito MP3, magari si metteranno la mano sul cuore, poi lo scaricheranno comunque. Insomma, lo scaricano con la mano sul cuore, chiaramente. Esatto, con la mano sul cuore almeno. È una sul mouse, che è chiaro. Esatto. Cioè, volevi dire quanta fatica. Quanta fatica, quanto lavoro ci sta dietro, e anche se fondamentalmente è un divertimento e lo si fa sempre con piacere, però effettivamente c'è un grosso lavoro dietro. Certo, certo. E queste iniziative comunque hanno anche lo scopo di creare un punto di incontro appunto fra gli artisti e gli ascoltatori, artisti più o meno conosciuti, eccetera, possono essere visti direttamente nella loro fase creativa, oltre che su un palco a interpretare. È una cosa molto bella, un'iniziativa molto bella che si fa negli Stati Uniti, mi pare anche in Inghilterra. Però ecco, vedi, io non mi ero informato, e per cui però sono, è una cosa molto positiva, genuina, ecco, sì, decisamente positiva, per scoprire, sentire proprio sentire non posso dire l'odore, però il sapore della fatica dei musicisti, esatto, è un'altra cosa. Ma poi devo dire che io la trovo importante questa idea, perché come diceva Mauro va ad aprire un mondo che l'ascoltatore non conosce, esatto, cioè quello della registrazione, ma soprattutto della fase creativa, perché chi come noi andrà al Day With, sarà invitato al Day With, e arrangerà lì il pezzo, fornirà e regalerà, diciamo, a chi è presente un momento che per un musicista è importantissimo. Certo, certo. La fase creativa, la fase dell'arrangiamento, quindi si crea questa terra di mezzo, citando un po' il buon vecchio scrittore del Signore degli Anelli, che è molto molto affascinante. Esatto, e posso testimoniare che i musicisti con il pubblico, sembrerà strano ma è così, rendono molto di più in studio, cioè si sentono molto quasi insomma hanno degli occhi puntati addosso, per cui dal pubblico riescono anche a trarre fonti di ispirazione e comunque a rendere un pochettino meglio, insomma, non che senza il pubblico non si possa registrare, per carità, però vedo che è un'esperienza che arricchisce tutti i partecipanti, quindi io che sono il fonico, il gruppo e il pubblico. Ma devo dire che essendo un musicista, io ritenendomi musicista fondamentalmente live, cioè io in studio fatico, sebbene abbia fatto molte incisioni, ma fatico a entrare in studio perché nel live si crea una complicità, si crea la condivisione con la gente che ti viene a guardare e ascoltare. Nello studio c'è un'atmosfera che, per quanto possa essere familiare, come per esempio al Trucolor Studio, è genuina, è comunque è molto più sterile, sì, se vogliamo, sì, che sì, non live. Quindi, esatto, che ci sia il pubblico in studio, almeno a musicisti come me, danno la possibilità di rendere molto di più. Ah, danno una spinta in più. Assolutamente sì, perché si crea quel fattore emotivo che altrimenti mancherebbe. Certo. Benissimo. Esatto. Bene, adesso ascoltiamo questo lavoro e io abbraccio, tanto ci vediamo sabato, abbraccio virtualmente adesso Mauro, perché devo svelare, insomma, che stiamo lavorando con lui a due dischi, uno uscirà a novembre, uno a dicembre, e mi ha tanto sopportato in questo ultimo mese, devo dire che ha guadagnato i voti per diventare arcangelo. Questa sicuramente ci sopporta da anni. Arcangelo addirittura. Beh dai, io che dire, vi saluto, vi ringrazio, continuo a seguirvi. E fino a mezzanotte inoltrata. Mi raccomando, non andare a letto, Mauro. Ciao Mauro. Ciao Mauro. Un abbraccio. Ciao Mauro, ciao, grazie. Buona serata, ciao, grazie. Allora facciamo ascoltare la canzone, che dici? Assolutamente, assolutamente. Oh, Rock Wave, l'onda del rock. Ok, Luca lo sa, forse... intanto parliamo del pezzo e dopo facciamo il giochetto. Okay. Parliamo del pezzo, come è sviluppato. Lui ha detto è stato registrato in 2 ore secche. Vieni avanti al microfono e dimmi perché. Perché c'era feeling subito. C'era feeling subito. Mm. È nato praticamente da Luca, che ci ha mandato il giro di chitarra, l'intro soprattutto, sì, la parte introduttiva. Da lì sono spuntate le idee. Poi un po' ci conosciamo, cioè... per esempio Alessandro, siccome c'è molta interazione tra me, Alessandro e Francesco, sa già che cosa faccio io e lui sa già cosa fare, come io so cosa fa lui. Per cui, bene o male, si pensa già, almeno nella sezione ritmica, pensiamo già allargato. Stai dicendo che siamo monotoni? Stavo dicendo che già pensiamo allargati, cioè nel senso che non penso solo al mio pezzo, ma penso già all'interazione con quello che fa lui, perché bene o male capiamo cosa si fa. E quindi è veramente nato in un pomeriggio, neanche in un pomeriggio, in un paio d'ore, sì, in studio per trovarci, e abbiamo assemblato tutte le varie idee. Mm. Ed è nato praticamente il pezzo. Devo dire che questa, il brano, la cellula del brano, diciamo l'idea, ha 10 anni. Ah, questo pezzo è stato nel cassetto. Sì, l'idea proprio iniziale. Quando è successo che Mauro ci ha fatto partecipi di questa idea, che io ho subito abbracciato e con grande slancio, ho preso in mano questa idea e l'ho fatta un po' evolvere, soprattutto pensando, come diceva Paolo, a loro, quindi agli strumenti e alle persone che poi avrebbero suonato. E devo dire che è la prima volta che compongo, seppur su una cellula, diciamo di 10 anni fa, e che l'ho fatta evolvere pensando a loro. Ah, ho capito. Pensando perché gli altri pezzi erano, come ti dicevo, sono, come ti dicevo, pezzi di altri contesti storici, diciamo, e di altri dischi. E invece questa volta ho pensato a Francesco, ho pensato a Paolo, ho pensato ad Ale, ho pensato a Jacopo. E devo dire che in effetti, a detta di tutti della band, è la cosa che è meglio riuscita, proprio per questo motivo, perché ognuno di noi ha interagito con gli altri in modo costruttivo ed efficace. Quindi possiamo dire che se ci sarà un prossimo disco dei Sei Mani, sarà un disco pensato per i Sei Mani. Sì, assolutamente, di brani originali, scritti e composti. Probabilmente, ed è un raro per me, sì, essendo un solista, probabilmente composti ma non finiti. Ho capito. Perché possano partecipare anche poi i ragazzi, che alla fine in realtà il musicista magari lo sa, però se io mi presento con un brano già definito e finito, i musicisti che lo arrangiano in realtà compongono, perché le parti di basso, le parti di batteria, le parti di percussioni e di sax alla fine sono altre melodie che si intrecciano alle mie, quindi la fase compositiva è presente anche nell'arrangiamento. Ti faccio una domanda di questo genere: che difficoltà c'è fare un pezzo da solista e fare un pezzo per gruppo? Mentalmente, musicalmente, è difficile per te sdoppiare il discorso? Non c'è una difficoltà tecnica. C'è una difficoltà di creare qualcosa che funzioni, e dal punto di vista diciamo solista, l'idea è che il pezzo, come ti dicevo all'inizio, debba assolutamente reggere da solo. Sì, quindi chiaro, si fa ricorso a tutte quelle sfumature tecniche che permette la chitarra, la percussione, piuttosto che vari legati, il tapping, eccetera. E anche dal punto di vista delle voci, quindi dal punto di vista polifonico, si crea un tessuto, a volte anche, passami il termine, logorroico, perché deve reggere il tutto, la melodia, il basso, il controcante eventualmente, eccetera. Invece quando si pensa a una band, almeno quando io penso alla band, devo costruire il pezzo, ma poi la mia parte deve essere una voce che si aggiunge a delle voci. Incastrata. Assolutamente. E quindi c'è un'altra prospettiva compositiva. E mai, almeno cerco, poi non sempre si riesce, il mio strumento deve prevalere, seppur io sia il compositore, ma il mio strumento deve prevalere sugli altri. Deve essere un gioco di voci, un gioco di incastri, per cui tutte le voci hanno da dire qualcosa e con la stessa importanza. Ok, adesso chiamiamo Walter per un motivo molto semplice. Dal disco a Agostino, mettiamo un pezzo da questo disco qua. Sì. Che pezzo vuoi scegliere? Abbiamo sentito adesso In viaggio e cosa abbiamo sentito? Non ricordo più. Abbiamo In viaggio. Allora sentiamo il cucchiaio non esiste. Esattamente, ecco, adesso Walter fa questo servizio, la ringrazio molto, e dà il pezzo ad Agostino, così lo sentiamo. Ce l'ho già. Ah, ce l'ho già, perfetto, okay, sei a posto. E questo brano... è un disco di che anno? Questo è il disco che abbiamo fatto e che stiamo sentendo adesso. Sì, no, ma è il 2009, ecco, un anno fa, giugno del 2009. Quindi, sì. Abbastanza recente. Sì, sì. Beh, io come se fosse ieri, per me è veramente... Sì, sì. Sì, come se fosse... Fresco, ecco, fresco, diciamo ancora così. Fresco. Puzza ancora di buono. Ecco. Non è un vinile che puzzava, odorava, esatto. Una brutta cosa, odorava. Però i vinili sono ritornati con molta lentezza, poche copie, un po' costose, anche, ahimè, francamente. Sì, ahimè, sì. E anche un po' pesanti. Adesso sentiamo il pezzo dei Sei Mani. Thank you. L'onda del rock. L'onda del rock. Ok, Agostino lo sa, Luca lo sa, il trio non lo sa. No. C'è il giochetto, c'è poco a fare. Sottoponiamoli a questa... Una volta erano i 5 dischi, facciamo 3 solamente dischi, 2 erano un po' troppo okay. Pochi. 2 sono pochi. Facciamo 3 che è il numero perfetto, non è il numero perfetto ma è un bel numero. Si dice, quando si arriva al terzo disco, il disco della maturità, tu ne hai fatti più di 3, ma sì. C'è la maturità. Quindi i 3 dischi da portare su un'isola deserta, che non è l'isola dei famosi, l'avventura non c'entriamo, è l'isola di Rock Wave. Okay. 3 dischi da portare, quello che volete, a vostro piacimento. Chi comincia? Vai, vai. Oddio, Paolo. È una domanda. È una grossa responsabilità. È una grossa responsabilità. Allora, un po' alla volta. Mm. Anche perché c'è veramente di musica, ne ho ascoltata, ne ascolto davvero tanto. Bene, e questo è molto positivo. È tutta in diretta, anche quelle ascoltate davvero adesso, tanta. Tutto in diretta. Tantissimi generi, quindi dalla musica classica, che comunque è stata anche la mia formazione, avendo studiato contrabbasso a conservatorio? Assolutamente, alla musica leggera, veramente. Cioè, ti vedo in difficoltà. Sto pensando a tutta la mia discografia immensa. Immensa, sono in difficoltà. Quindi parto da un piccolo concetto. Allora, io negli ultimi 15 anni di vita ho seguito con tutto me stesso e tutta la passione, è stata un po' la mia pappa, lo chiamo così, il mio pane. Un bassista stupendo che è qui in Italia. Se voi aprite qualsiasi disco di musica italiana, c'è lui al basso. Lo cito, dà anche il nome alla testata che ho qui in studio, il mio amplificatore, del grandissimo Paolo Costa. E la prima volta che lo incontrai qualche anno fa, feci la figura del bambino davanti a Babbo Natale. Ho avuto solo il coraggio di stringergli la mano e dirgli grazie di tutto. Lui mi ha guardato e mi ha detto di che cosa? E io gli ho detto di tutto. E me ne sono andato via, non sono riuscito a aprire bocca. La fortuna ha voluto che questo grandissimo personaggio sia diventato poi il mio insegnante. Ah, vedi. Andai da lui, feci sentire un pezzo, lui mi fa: ma cosa devo dirti? Dico: guarda, io ho 20 anni di domande. È veramente un uomo che ha cambiato il mio modo di suonare, pur essendo veramente semplice ma efficace. Non a caso è veramente il numero uno dei turnisti, il numero uno dei bassisti. Lo trovi in qualsiasi parte. Allora. E poi ci metti anche Pino Palladino. Assolutamente, lui prende da Pino Palladino, quindi Pino Palladino è il suo maestro. Allora, portiamo questi 3 dischi in un'isola e allora io scelgo. Vai. Un album di qualche anno fa che è da 10 anni nella mia automobile, proprio nel CD della mia auto. Ho cambiato 4 macchine ma mi sono sempre portato dietro il disco. Allora, c'è lui al basso, è un album live di Claudio Baglioni, è esattamente Attori e Spettatori. Ah, ho capito. E credo ci sia la più gran ritmica che io abbia mai sentito in vita mia, e la cito qua, in cui Paolo Costa al basso, e addirittura un album, forse l'unica esperienza in Italia, con due batteristi, e quindi il grande Elio Rivalli e Gavin Harrison, sì, di Porcupine Tree, assolutamente, certo, alla batteria, e veramente ancora lo studio ancora oggi, perché è fenomenale. Quindi Baglioni live grazie a Costa, praticamente. Assolutamente, a Paolo Costa. Perfetto. Porto un altro disco. Sì. Sempre di Paolo Costa, citando altre grandissime linee di basso, dove c'è un pezzo molto caro, forse uno dei primi pezzi veloci che io ho suonato. Sentito. La prima volta che l'ho sentito ho detto: ma che è questo? Eugenio Finardi. Quale? La forza dell'amore, dove c'è Extraterrestre. Bellissimo. Meraviglioso. Momento, hai sentito... La forza dell'amore era una raccolta di Finardi. Era una raccolta di Finardi. Non hai sentito l'originale allora di Finardi? Non c'era Paolo Costa. Non c'era Paolo Costa, ma ti dico anche chi c'era. C'era il povero Stefano Cerri, povero, che è veramente un grande bassista. Grandissimo bassista che se n'è andato. Infatti, tengo a dire questa cosa qui, e Paolo stesso lo ammette: dice, quando ho registrato questa cosa, ho preso questa linea, l'ho rifatta un po' più mia. E la gente mi fermava per strada. Io, dice, ero addirittura imbarazzato, perché gli dicevo: guarda, che la linea non è mia, ma è del povero Stefano Cerri, figlio del grande Franco Cerri. Certo. Che tutti ricordano per una cosa: sì, l'uomo in ammollo. Lo nomino in ammollo. È l'uomo in ammollo, esattamente. In realtà è un grandissimo chitarrista. Ma lo sai, ma tu lo sai bene meglio di me, ma forse gli ascoltatori non lo sanno. È vissuto così. Cioè, è riuscito a portare avanti una carriera meravigliosa grazie all'uomo. All'omino in ammollo. Sì, è poco da fare. Poco da fare. Citando Extraterrestre, era da Diesel, chiaramente extraterrestre. Assolutamente. Che è un disco meraviglioso. Poi La Forza dell'Amore è passata un'altra etichetta, ha fatto la raccolta, ha avuto grande successo. Certo. E Paolo Costa c'era, chiaramente. C'era Paolo Però Costa. Diesel è un grande album un di grande Gianni album, Finale. Sì. Okay? Mi piacerebbe portarli tutti. E poi... e poi? C'è un disco. Sì, dimmi. C'è un disco dei... C'è un pezzo meraviglioso che ha cambiato la mia vita, e secondo me il segreto della musica sta tutto là, in tre note del grande Pino Palladino, ah, che ecco, quello grandissimo bassista, ha citato Agostino poco fa. Il pezzo si chiama Woman in Chains, dei Tears for Fears, grandioso, grande pezzo, grande. È un album fantastico, e al basso c'è Pino Palladino, che un pezzo di una semplicità unica, proprio veramente unica, note lunghe, lascia tre firme in tutto il pezzo. E tu dici, davanti a questo minchino e mi emoziono e non posso fare altro che ascoltare e dire... È verissimo, Pino Palladino era come il pepe, anche quello c'era dappertutto. C'era dappertutto. C'era dappertutto. Non a caso però, c'era dappertutto. Cioè, potrei citare qua veramente liste infinite di bassisti. Hai citato i Tears for Fears, ricordiamo che un pezzo dei Tears for Fears, non famosissimo, ma The Warp, fu un successo strepitoso nelle classifiche inglesi, non cantato dei Tears for Fears da un musicista. Certo. Però era... Pezzo di io mi porto Fears. Questi tre dischi qua, quindi Tears for Fears, sempre con i bassisti, però sempre col bassista, no, soprattutto grandi ritmi. Cioè, c'è da dire che al di là del bassista stesso, in questi tre dischi c'è veramente della grande non musica. Hai citato un grande bassista, però io non l'ho citato, per il abbiamo capito motivo. Chi cioè, abbiamo capito chi, parliamo del papà di tutti i bassisti, tutti quanti l'hanno studiato, lo dico a tutti, studiatelo, perdeteci il tempo perché ne vale la pena, forse il più gran genio mai esistito, che è Jaco Pastorius. Esatto. Non l'ho citato perché tutti cercano di imitarlo, un po' come il Jimi Hendrix della chitarra, no? Ce ne sono a miliardi. Lui aveva quel modo di suonare lì e solo lui riusciva con questo. Sono d'accordo con te. In realtà poi in Italia veramente ci sono bassisti strepitosi, veramente molto molto molto molto bravi. Hendrix era unico, Pastorius era unico. Sì, grazie, non c'è niente troppo buoni, obbligato come direbbero. Esattamente. Però citiamo anche Jacopo Pastorius, che ha dato assolutamente. Ha creato un modo di suonare. Mi permetti un quarto disco, l'ultimo. Allora, dato che mi citi Jaco Pastorius, sì. Anni fa, da un gruppo di musicisti italiani, veramente grandissimi, grandissimi musicisti e turnisti, è nato un gruppo che si chiama. Non so se esiste ancora, perché metterà insieme tutti i turnisti è difficile. Si chiama Biba Band. Non lo conosco. Era un progetto nato. Come si scrive Biba Band? Biba Band, così come lo. Di Elio, no? C'era un progetto di Elio. Assolutamente. Non dite così perché si arrabbia. Allora, tra Elio. Questi c'è anche Elio lo Storizzese, che suona il flauto. Elio è un grandissimo flautista. Certamente. Allora, doppia ritmica, quindi doppia batteria con Max Furian e Christian Meyer alle batterie. Paolo Costa e Faso ai bassi. Ah. Cavolo. Ogni tanto c'era anche Peter Erskine che veniva, sì, come ospite. Così. E poi una schiera di qualcosa tipo 40 musicisti che si turnano tra loro, tra fiati, chitarre. Volevo ricordare il grande Naco, le percussioni, che è stato anche maestro Paolo. Di Paolo. Purtroppo è scomparso anche lui in un incidente stradale qualche anno fa. E loro era un progetto dedicato ai Weather Report. È una cosa strepitosa, groove allo stato puro. E io di Weather Report ricordo un disco che era forse l'unico disco rock, I Sing the Body Electric. È un'altra cosa, è un altro cosa mondo. Si può fare. E un'ultima cosa, poi passiamo a Paolo. Assolutamente. A proposito di Elio e le storie tese, certo. Tanto sono musicisti straordinari, strepitosi, anche se fai a X Factor non c'entra assolutamente nulla. È un musicista zappiano, Elio e Storie Tese sono zappiani al 100%. Assolutamente. Poi io anni fa ho avuto l'onore di suonare con loro, però ero in orchestra d'archi, e strepitosi, cioè loro sono divertenti, pazzi, simpatici. C'era Alessandro, che è stato a pranzo la settimana scorsa con il batterista, no? Personaggi veramente gente buona e simpatici, che hanno tanto da insegnare, scherzano sempre, così come si vedono sul palco sono anche nella vita, quindi veramente veramente eccezionale. Ok, tocca a te Paolo. No, aspetta, Francesco, si è dimenticato degli Chic, il Freak. Ah, aspetta, attenzione. No, posso dire una cosa? No. So allora, che ti piacciono, con questo tu lo sentirai anche un po'. No, lo senti anche nel mio modo di suonare. c'è tanto Bernard Edwards, mi alzo in piedi con la mano sul cuore, perché no, assolutamente, diciamo che sono, che ti seguo, no, sono nato con quella musica lì, veramente, cioè, ci sono brani che, cioè, quello era il basso però elettrico, non vale, solo abbiamo tre. Detto tre, erano tre, quattro per Luca, Checo è, sai, c'è feeling, so, però... e quindi vabbè, concedetemi quest'ultimo degli sci, che mi porta anche questo, così siamo a posto. Vai Paolo. Beh, allora anch'io quattro. Sì, fai quattro anche te. Scusate, no, perché allora se ci allarghiamo. Io con le percussioni è una cosa stranissima, perché un po' cerco le percussioni, un po' cerco cosa mi dà emozione e non sono le percussioni, per cui è difficilissimo. Comunque sono riuscito. Bene. Uno è, come ha anticipato Checco, il disco di Naco, che ha fatto prima di mancare, e che al di là, appunto, che ho avuto il grande onore e la fortuna di conoscerlo, di entrarsi in relazione, di prenderci un paio di lezioni, però è quello che è un disco che apre la mente, cioè nel senso che combina, fa cose, è veramente incredibile. E non solo, ma lui era uno che non stava era bravissimo a stare sul modo di suonare classico, però ogni tanto ci infilava cose tipo i maccheroni o le molle. È stata una bella, una volta che lui ha suonato in macramè di Fossati, certo. Di Fossati, che è bellissimo. Sì. Un giorno eravamo lì a un concerto, detto, oh, bellissimo quella cosa che assomiglia a una molla, ma cosa hai fatto? Una molla? Allora io penso, uno che ha il coraggio di mettere in un disco di Ivano Fossati una molla, e gli altri, cioè, vuol dire che è uno che sa veramente, è veramente il fatto suo. Certo, certo. E quindi per me questo è uno. Quello è uno. Due, una buona parte della discografia degli Oregon. Siamo proprio sul raffinato. Sì, quello molto è raffinato. Un mondo che mi ha aperto la mente. Molto meno sulle percussioni, anche se c'era un trio Gurtu, sì, di cui mi alzo in piedi e mi inchino. Però proprio a livello di emozione di mondi, lì è tutta una cosa. È una band molto particolare. Molto particolare e continua ad affascinarmi. Certo. Vado veloce, terzo, perché è stato il mio primo, quando mi hanno il primo disco dei Summertime, che mi hanno detto vieni a registrare, allora io ho cercato di capire come si infilano le percussioni, cioè come si interagiscono, e io mi sono studiato tutti i primi Incognito. Ah. E lì, per capire per come facevano delle belle cose di percussione, per capire come si intrecciavano, e me lo sono proprio digerito in maniera modica, ed è stato anche quello una grande scoperta. Il quarto è stato il quarto è Noah. Ah, perché brava anche lei. Lì a parte, appunto, c'è tutta una cosa, ma comunque c'è il percussionista, che il vecchio percussionista, che è Zohar Fresco, che ha infilato delle percussioni che tipo quelle cose quando tu hai il colpo di fulmine, dici, questo ti apre la mente, cioè ti fa fare quello scatto di qualità, cioè riesci a capire, a fare uno scatto di qualità che è incredibile. E anche lì ti dico, ho avuto la fortuna di conoscerlo. Sono quelle robe che ti parla per 5 minuti e hai un bagaglio per 6 mesi. Certo, prima ho capito. Di interiorizzare e capire cosa fa. Quindi insomma i miei quattro, sono questi. E ci metto io Michael Jackson Thriller, che so che infilerei anche, ho avuto molta difficoltà, però dovevo rinunciare alla crema da sole, per infilare il quinto ciglio dovevo togliere qualcosa. Complimenti a proposito per il tributo che grazie, avete fatto. Grazie. Vai, Alessandro. Beh, diciamo che è un po', sì, insomma, è un po' difficile adesso qui stare a tirar fuori tre album, in realtà, insomma. Se dovessi vedere ogni artista ha fatto, diciamo, delle più che altro, sai, i musicisti seguono un po', ma chi, certo, c'è nel disco, chi suona? Sì, esatto. Poi, per carità, magari ti può piacere un artista, appunto adesso Agostino ha appena detto Thriller di Michael Jackson, e il buon Jeff Porcaro c'era anche lì. Sì, certo, c'era anche lì. Per cui io potrei dirvi con Quincy Jones, i dischi dei Toto. Sì. Tra l'altro questi sono personaggi che veramente, come diceva prima... Toto Cutugno, chiaramente. Personaggi che, come si diceva prima, no? Diceva anche Luca, voi andate a aprire la discografia di questi personaggi, per esempio, anche prematuramente, purtroppo, scomparsi come Jeff Porcaro. Sì. Voi andate in internet sul suo sito e cercate di arrivare in fondo. Sì, cioè, perché... a 36 anni quello che aveva fatto è impressionante, per cui... Sì, è andato per tutto. Devo andare un po', diciamo così, il primo disco è un disco proprio di cuore. Sì. e appartiene a uno, a un personaggio che immancabilmente è stato l'impronta del mio imprinting, diciamo, no? Quindi il mio modo di suonare, il mio modo di concepire, il mio modo di vedere un certo lato della, parlo del mio strumento, della batteria. E quello che poi è diventato il mio maestro, anche lì c'è stata una scena come Francesco, insomma, il grande Agostino Marangolo, che ha fatto i dischi di tutta Italia, per cui il primo disco che cito è Nero a metà di Pino Daniele. Bellissimo. Per me, anche se poi ci sono altri album ovviamente anche di Pino, però io ancora sei legato a quello. Io ancora sono legato, ancora risento delle cose, ancora mi ricordo quando ero, insomma, ragazzino, che mi ricordo a un seminario di Agostino Marangolo, mi alzai in piedi, gli chiesi qualcuno come telefono? Dimmi. Va bene, siamo in diretta. Siamo in diretta, può capitare. La parte di batteria, di cosa... E io mi ricordo che lui mi disse, c'erano 100 persone, lui mi disse, vieni su, te la faccio. Io ero proprio instupidito. E lui mi ha fatto la parte, lì a un metro da Agostino Marangolo. E più o meno così, mi sai, perché adesso un po' la discografia non mi ricordo, più o meno così. E io rimango letteralmente così, fermo. Esattamente. Cioè, lui mi dice, ma hai capito? E io sì, no, non mi dire che hai capito se non hai capito. Io ero lì. È stata una scena. Poi Agostino, insomma, siamo diventati amici, per molto dire. Amici. Ma è un modo, ecco, quello di concepire la musica che sento molto vicino a me. Cioè un modo molto musicale. Ecco, quello è importante. Certo, le certo, mie ho capito. Parti, quando le persone vengono a farmi i complimenti per il disco che ho fatto o per il live, i complimenti, cioè diciamo... Uno sa come cioè il più bel complimento che posso ricevere, appunto, è magari sulla parte raffinata, elegante, per me è quello. E posso citare altri batteristi come Manu Cacce, ce ne sono tantissimi che suonano. Steve Gadd, vabbè, nasce tutto da lì, per cui insomma. Quindi insomma, ecco, diciamo, il primo disco sono legato a quello che è appunto Nero a metà di Pino Daniele, e per l'artista e soprattutto per Agostino Marangolo. E qui però potrei dirvi, dovrei portarmi io tutta la discografia di Agostino, perché ce l'ho, quindi non. Poi il secondo album è un album di un altro artista che io adoro, però anche qui è difficile scegliere tra la sua discografia. È Ten Summoners Tale di Sting. Sting, tra l'altro, con l'aiuto. E c'è il buon grande Vini con l'aiuto della batteria. Apro una piccola parentesi. È una cosa. L'altra notte, tornando da uno dei soliti concerti, quindi solito autogrill all'una alle due di notte, guardando nello scaffale dei dischi, io sono ancora uno che compra tutti i dischi. Mi sono imbattuto in un disco di Sting. Ho detto, ma non ho mai visto questa copertina. Se capita, comprate l'ultimo disco di Steel, che si chiama Symphonicity, sì, solamente sinfonica. Voce e orchestra, esatto, e vi metterete a piangere. Sentendo Roxanne mi sono scese due lacrime, ho detto, bene, brividi. La musica mi emoziona ancora. Infatti, ecco, una parentesi su questa cosa, appunto è anche difficile andare a scegliere un disco di un artista, per esempio artisti così completi come Sting, è difficile veramente sceglierne uno. Ma hai scelto quello, dai. Ho scelto quello, e diciamo che comunque sono attirato, vi ripeto, da quello che è la musica, quindi non il fare propriamente tecnico dello strumento. Insomma, come diceva un mio insegnante in conservatorio, mi diceva sempre, guarda che ci sono due categorie, lo strumentista e il musicista. Tu devi decidere cosa vuoi fare. Chiaro. Il musicista, insomma... Chiaro che è una cosa molto più completa, ovviamente. Certo. Terzo disco, anche qui, terzo, vi ripeto, insomma, così al volo dirvi, io sono un amante della, suono parecchio pop, ecco, la musica pop mi piace, ho studiato e suono anche jazz, eccetera, però insomma anche dischi di jazz ce ne sarebbero tantissimi. E dovrei andare indietro. Qui apro solo una parentesi e dico che comunque quello che è stato fatto indietro, cioè nei tempi passati, diciamo che è tutto quello che si sente ora. Ho capito. E quindi non hanno inventato niente. Non vorrei dirla così, però è così. Insomma, diciamo che insomma è così. È inutile che giriamo. Ci giriamo, che sia nel jazz, che sia nella dance, che sia, cioè, sì, sì, stiamo parlando di cose già quello, fatte. Quello che è stato fatto, così come nella musica classica. Sì, rivedute e corrette. Sì. Ecco. Il terzo disco? Terzo allora? Disco, cito un disco acustico invece di Baglioni, che è proprio l'acustico, perché c'è una ritmica che mi fa pazzire, appunto, agli Olivaldi e Gavin Edson, però la versione acustica invece non è quella attore spettatori che ha detto Francesco prima, che in realtà appunto ho avuto il piacere di conoscere anche uno degli arrangiatori, anche il chitarrista Paolo Gianolio di Claudio Baglioni. Eravamo sì, a Canale 5, Canale 5 in Mondovisione a suonare appunto con questi artisti, e io andammo lì anche con Paolo, che eravamo lì come ritmica a ringraziarlo. Anche lui disse: beh, di cosa? Dico: beh, no, perché quel disco lì è un'enciclopedia. È un'enciclopedia perché noi ogni volta che lo riascoltiamo ci troviamo sempre qualcosa di nuovo. Questa è una cosa veramente pazzesca. Ogni tanto con Paolo ci stupiamo perché lo riascoltiamo magari dopo ogni 7, 8, 9 mesi, un anno, no? Magari passa un anno. Mai sentito qui che c'è questo? Io non mi ero mai sentito qua. Ma sì, ed è pazzesco. E ogni volta quando dobbiamo creare qualcosa di nuovo, ma su quel disco lì, sì, provare a fare, sì, una cosa del genere. Sì, sì, sì. È un po'. Okay. Comunque, insomma, tre, ma sono veramente troppo pochi questi. Certo, che ho citato, certo. Ma ecco, ve li dico proprio così come mi vengono a quest'ora. Abbiamo i determinati tempi, certo, per questo. Vai, no, io ho le idee più chiare, diciamo. Me l'hai già fatta questa domanda, quindi non posso esimermi dal portare Before This Crow Street di Dave Matthews Band. Perfetto. Ecco un altro. Vedi che vengono portare fuori, e anche Dave Matthews. Questo è un disco, questo, ma quale enciclopedia? Questa è un'opera d'arte. È una macchina, assolutamente. Poi vorrei portare Secret Story di Pat Metheny. Bello quello. Un chitarrista e un artista che non amo, diciamo, tutta la sua discografia, però guardo a lui come un esempio di versatilità. Certo, ed è lui la mia, lo dico qui lo nego, è la mia ispirazione dal punto di vista produttivo. Cioè lui fa un disco da solo, un disco in trio, un in duo, un in band, e con una ricchezza, una profondità sonora sempre diversa, ed è spettacolare. Perfetto. Il terzo disco è un disco di Niccolò Fabi, è La cura del tempo. Bellissimo. E volevo, visto che l'ho ricordato, volevo mandargli un abbraccio fortissimo per la perdita della figlia, che, certo, da poco è mancata, giovanissima, cioè 2 anni. E ecco, questo è un grande disco che mi porto. In realtà Niccolò Fabi lo ritengo un grande, grandissimo pensatore del nostro tempo, e me ne porterei un altro, vai. Dai, visto che è solo un uomo, che è l'ultimo che ha, certo, fatto, sì, che è veramente, veramente intenso e profondo. C'è da dire che, dimmi, durante un concerto di quel tour, io, Alessandro e Luca Francioso ci siamo conosciuti. Assolutamente, a un concerto di Niccolò Fabi qui a Padova, sì, all'Arena, fantastico. Quello, perché in realtà, e vedi che in quel tour sempre c'era Agostino Marangolo, con al basso Lorenzo e Feliciati, altro mio insegnante, strepitoso. Quindi il giro è sempre quello. Adesso facciamo un pezzo live un po' particolare, vero? Devi fare una domanda a lui. Devo fare una domanda? No, domanda. Una richiesta. Allora, intanto è un pezzo che io e Alessandro stiamo cercando di spingere per arrangiare da un sacco di tempo. Te dico sempre, lui in realtà, dice sempre di no. Lui dice sì, no, ma adesso lo facciamo con calma. Qua là, la calma non c'è mai. La calma non c'è mai, purtroppo, per metterci un attimino a lavorare con un po' di calma e serenità. Di tempo. Di tempo. E in realtà io ho questo ricordo qui. Eravamo, non mi ricordo su che palco, con i Summertime, in una di quelle manifestazioni in cui ci sono più artisti. A un certo punto sento una chitarra. Chiesa delle Remitani. Nelle chiese dei Remitani, forse. Avevo il mio primo, appena comprato il mio primo basso acustico, sì, quindi, sì, parlo di tanti anni fa. Sento una chitarra impazzita che suona, e una miriade di note. Dico: ma questo chi è? Mi giro e vedo Luca che suona. Non ci siamo conosciuti quella sera, no, gli ho solo fatto i miei più complimenti, mai avrei pensato. Quando mi chiama a registrare un suo album, che era La tutt'altra lontananza. Alla fine io ho registrato le mie tracce in studio. Quando mi dà l'album finito, metto su il disco nella macchina e sento partire sto pezzo che mi prende. Allora io ho una richiesta da fare a Luca, se questa sera può eseguirci qui in diretta un pezzo strepitoso che è Autoritratto. Certamente. Rock Wave, rock wave. L'onda del rock, l'onda del rock. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Dunque, l'artefatto era questo, doveva suonare solo Luca. Però visto io, non, i musicisti non possono stare fermi e quindi ho vissuto nel panico. L'ho provata guardando, non l'ho mai suonata. Ma è bello così, l'hai provata qua. Sì. Io ero, tu avevi cominciato, avevi tentato, tuo fratello è rimasto. No, in realtà avevo tentato di prendere in mano uno shaker di Paolo. Alessandro mi ha guardato, come dire, lascia perdere. Allora mi sono per non rovinare, mi sono accontentato di battere le corde del mio basso. Sì, e secondo me arriverà il momento. In realtà, secondo me, questo è un pezzo bellissimo. Lo facciamo. È un po' una poesia di Luca e a me piace tantissimo. Sì, sì, arriverà il momento in cui il pezzo sarà arrangiato. Sì, sì, è già, questo è già un inizio. È il germoglio di radio. Sì, un new entry, cioè una cosa assolutamente nostra, una nostra esclusiva questa, assolutamente. 23:56, Agostino, abbiamo quasi finito, cosa dici? Ma io, se loro sono d'accordo, mi resto, sai, non c'è nessun problema. Loro non mi stancherei mai di ascoltarli. L'ultima volta che sono andato a sentirli a Tombelle, scusate, hanno suonato due ore circa. Sì, tanto, tantissimo. Io ho detto, ma già finito, cioè, avete fatto uno spettacolo stupendo. Anche grazie. Chiara poi è straordinaria, Domenico lo stesso. Sì, vogliamo ricordarli, Chiara io Luppi, li ricorderei. Voce straordinaria, che anche in tutta qualche parte, esatto, è in Sicilia, con, in Sicilia. Oltre ad aver fatto Notre Dame de Paris con era una delle sostitute, sì, ha fatto Romeo e Giulietta. e sta facendo I Promessi Sposi. E oltre ad essere stata corista per tantissimi cantanti, è una grandissima voce ed ha avuto la fortuna di averla, insomma, in questo disco dell'Altra Pelle, certo. Ha cantato una canzone. E poi anche Domenico Calabrò, che è mio, diciamo, fratello, non di sangue, ma un mio grandissimo amico, e, che ha partecipato non solo con le chitarre elettriche, che è il suo strumento, ma anche scrivendo l'arrangiamento per Quartetto d'Archi. E, ecco, sono altre quattro mani che hanno partecipato a questo disco, che in realtà di sei mani, sì, ci sono, ma 12, ce ne sono veramente 12. Tantissime. Esatto. E quindi li ricordo molto e li saluto con il cuore. Con Jacopo. Oltre a Jacopo, il buon Jacopo. Hai qualche data per I Sei Mani? C'è qualcosa? Qui si tocca un tasto dolente. Date adesso non ce ne sono, non perché noi non vogliamo suonare, ma perché in effetti stiamo trovando grosse difficoltà nel piazzare il concerto a causa della mancanza di fondi abbastanza palesata e forse a volte anche presa come scusa per non mettersi in gioco da parte di alcuni enti che, come dire, trovano la formula giusta un anno e ripetono sempre quella, vedi Sagra, vedi e quindi così noi non molliamo, vogliamo suonare, cerchiamo di portare all'estero questo progetto, ne parlavamo prima c'era. Assolutamente sì, mentre da solo è più semplice, capisci? Certo. Perché comunque io mi muovo da solo, noi quando ci muoviamo, anche se siamo sei mani, siamo in realtà in otto, certo. E quindi comincia a essere complicato. Quindi attualmente date nessuna, però stiamo lavorando al disco nuovo che dovrebbe, la cui pre-produzione dovrebbe cominciare, composizione eccetera, l'anno prossimo, e vediamo di portarla poi in giro. Bene, tanto li avete portati qua. Hai visto? Chiaramente questo è una cosa. Maurizio, ti li ho portati. Agostino si è fatto la corte per un po' di io tempo. Io voglio spendere una parola su Luca. Forse non tanti lo sanno, ma lui è anche un autore di libri. Lui scrive, fa i gialli. Devo aggiungere qualcosa. Ma no, hai la passione anche per scrivere. Sì, è una malattia, è una passione, è un'urgenza, ma anche la chitarra, la composizione, sono due linguaggi espressivi che ho scelto alla fine perché sento questa urgenza di raccontare storie, di comunicare, di mettermi in gioco attraverso questi linguaggi. E lo faccio con grande passione, sono un amante della storia raccontata, del cinema, del libro, e quindi sì, fra l'altro è uscito 12 birre, sta uscendo 12 birre, che è il mio ultimo libro, visto che ne parli ne approfitto, certo. È un libro a puntate che viene pubblicato su fingerpicking.net e anche sul mio sito lucafrancioso.com. Ogni lunedì c'è una puntata, sono 21 puntate, è un thriller e proprio di musica parla, perché è ambientato negli anni 80 e parla di tre chitarristi realmente esistiti, tuttora in vita, che sono Stefan Grossman, John Ramburn e Reno Brandoni, e si ispira, questi tre personaggi si ispirano a loro e al loro mondo, al mondo degli anni 80 per la chitarra acustica, è stato un mondo importante, visto che ai concerti di chitarra acustica, sembra strano dirlo, solo pensarlo, c'erano 1500-2000 persone, si riempivano I palazzetti, era proprio un fenomeno quasi pop, diciamo così. Adesso è impensabile una cosa del genere, neanche Tommy Mann probabilmente fa, che sì. La punta dell'iceberg di questo stile fa tante presenze. E questo in realtà poi la musica è lo sfondo per raccontare un mistero che poi viene svelato puntata per puntata. Poi invece finirà il 6 settembre l'ultima puntata, poi il 12 settembre uscirà in cartaceo la versione a cartacea. Quindi il libro vero e proprio, sì. Poi tu hai citato John Rainbow, ricordiamo il grande successo di John Rainbow è stato dovuto anche al successo dei Pentangle. Assolutamente sì, è stata un'esperienza quella dei Pentangle che probabilmente ha cambiato il modo di vedere le chitarre e anche le chitarre acustiche. Però devo dire, visto che si parla di chitarra acustica, che il personaggio che ha radicalmente cambiato proprio il modo di vedere lo strumento, tuttora diciamo copiatissimo da moltissimi chitarristi, forse anche troppo, no, non è Luca Francioso ma è Michael Hedges, che è stato un chitarrista prematuramente scomparso anche lui in un incidente stradale, un chitarrista straordinario che ha portato davvero la chitarra su altre dimensioni, tuttora, come dire, molti chitarristi si rifanno. Io faccio una parentesi: all'epoca, quando ero un po' più giovane, compravo i dischi di Leo Cocht della Tacoma Records. Assolutamente, una volta della Tacoma Records. Records. Tutti se lo ricordano, la Tacoma Records. Era una, cioè, giornali musicali italiani spingevano. Possiamo citare il Mucchio Selvaggio, il Buscadero, poi certo. Prima il Mucchio, poi il Buscadero, e portavano avanti il discorso di Leo Cocht, che era stato un grandissimo artista, tuttora Una volta c'era John Fay, ma vedi, era un periodo per la chitarra acustica molto diverso, perché c'era poca proposta, c'erano pochi chitarristi, e oggi per fortuna ci sono moltissimi chitarristi che suonano, e quindi per l'ascoltatore c'è molta più opzioni di ascolto. Però all'epoca la chitarra, all'epoca, si parla degli anni 70, certo. A cavallo tra i 70 e 80, ha vissuto una vita che non so se si possa ripetere. No. Non lo so, io spero di sì, da chitarrista me lo auguro. Adesso è grazie a questi fenomeni che possono piacere o meno, mediatici o meno, costruiti o meno, non voglio giudicare io, cioè Einaudi, Allevi, che la monostrumentalità è tornata a riempire gli stadi, i palazzetti, e questa è una cosa importante per un solista, certo. Perché vuol dire che comunque c'è ancora curiosità per la monostrumentalità. Se pensi che il chitarrista più importante del fingerpicking, che è Tommy Emmanuel, diciamo la punta d'iceberg di questo mondo, lo conoscono davvero pochissime persone, allora ti fai l'idea di come gira, insomma, un po' questo ambiente. Benissimo, 24 e 3 minuti primi, e adesso concludiamo come sempre in bellezza con un bel pezzo live. Alessandro, sei pronto, vero? Adesso sei pronto. Sono prontissimo. Alessandro, Francesco, Paolo e Luca, trio, io sì, sei mani. Se c'ho un minuto, volevo... Vai. Tanto Agostino ha detto che sta qua fino a mezzanotte e mezza. Sì, tranquillo. No, questo è un pezzo che si chiama Sotto il Ponte, e io sia dal vivo sia qui vorrei dedicarlo a tutti i sognatori, e qua mi pare che ce ne siano tanti in questa stanza stasera. Cioè quelle persone che, nonostante tutto, nonostante la praticità del mondo che il mondo continua a predicare, chissà che ci sveglieremo da questa grande illusione dello stipendio fisso e a tutte quelle persone che hanno il coraggio e la forza intanto di scindere sogno e utopia, che sono due cose completamente diverse, e di investire sul proprio sogno, sul proprio talento, tutta la propria vita in modo totale, perché io sono sicuro, convinto che solo così si è veramente felici. Certamente, grazie alla Luca Francioso Trio, grazie ad Agostino Spolaore, grazie a voi. E grazie a Michele Toson che ha sistemato. Posso tutti dire gli... un'ultima vai, cosa? Vai. Ultimissima, io veramente, e credo anche sia il pensiero di tutti quanti, un ringraziamento a voi che ci avete voluto qua, e veramente di cuore ad Agostino che ci segue da tempo con tutta la passione. Beh, siete amici prima di tutto. Assolutamente sì, ma con tutta la passione. Vedere Agostino poi... sotto il palco che sorride ti dà ancora più carica, nonostante le rotture magari di una giornata pre-concerto, e dici ok, per queste persone ne vale la pena veramente. Io ti ho conosciuto una sera, il primo dell'anno era di assolutamente, che fa. Mi ha chiesto di fare una foto. Sì, esatto. E io ci sono rimasto, dico ma volentieri, ma scherzi, cioè... E io ti ho conosciuto che eri distrutto, perché la sera prima avevi suonato in Prato della Valle fino alle 10. Sì, anche a Pordenone, e poi sei andato prima con la neve. Sotto la neve ero dilaniato. Ti ricordi? Mi ricordo. È stata una bellissima esperienza. Io ringrazio voi veramente di cuore. Grazie a te, Agostino. Grazie a tutti gli amici, lo sapete, io mi sono emozionato ad avervi qui. È stata una cosa che ho voluto fortemente anch'io, assieme a Maurizio, perché era giusto dare lo spazio anche alla nostra musica locale, che merita veramente di essere conosciuta. E poi siete bravissimi, non occorre che vi dica. È un grazie a Maurizio che è stato qui. Grazie a voi. Buonanotte a tutti, e Rockaway prosegue domani, chiaramente. Ok. È mezzanotte e 6 minuti. Rock Wave, l'onda del rock. un solo acustico.